la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, sono le 16:08 primi e qui in diretta. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto, la versione di Oscar in diretta in podcast, e vi dice subito di che cosa parliamo oggi. Se volete telefonare all'800 24 0024 oppure 349 238 6666. Ecco, l'argomento della giornata sono le leggi, come oramai chiaro, le leggi che dopo essere state, tra virgolette, sventolate, insomma, vantate nella propaganda da parte della maggioranza che sostiene il governo Gentiloni come le leggi più fondamentali che andavano portate a casa entro la fine della legislatura, e abbiamo passato tutti questi mesi dibattendo su alcuni passaggi in uno dei due rami del Parlamento di alcune di queste, con pugnaci, anche lotte politiche in aula, con la formale promessa che era stata fatta anche su richiesta di Repubblica, vi ricordate? All'inizio dell'estate le 10 leggi che devono passare, e la risposta assolutamente passeranno, e così via, eccetera eccetera. Allora, è oramai chiaro che la stragrande maggioranza di esse non passerà, e allora noi ci preoccupiamo di capire perché, e ad alcune di queste dedichiamo poi una riflessione precisa. Se volete avere l'elenco preciso, oggi c'è una pagina del Corriere della Sera dedicata a questo argomento, la pagina 6, e il titolo dice: reato di propaganda fascista, primo sì, ma al Senato ci sono 64 leggi sospese. Con ogni probabilità anche la legge Fiano farà parte di queste leggi manifesto, che a mio giudizio hanno una fortissima natura di tipo elettorale, servono per sottolineare l'identità di chi le vota, ma che molto difficilmente poi invece saranno approvate, perché a furia di inseguire piste diverse, la verità è che l'ingolfamento con la prossima legge di bilancio e poi le elezioni, con ogni probabilità appiccicate subito dopo, impediranno il doppio passaggio necessario. Ecco perché al Senato appunto ci sono queste 64 leggi, e c'è un collo di bottiglia rappresentato anche dal fatto, come sapete, che i margini di maggioranza al Senato sono molto più ristretti. Quali sono queste leggi? Ripeto, temi fondamentali su cui in questi ultimi anni, in questa legislatura, sono esplose molte polemiche. Per esempio, il testamento biologico è pressoché certo. Ricordate l'impegno di Cappato per DJ Fabo? Ecco, l'impegno del Parlamento fu: naturalmente interverremo con la legge entro la fine della legislatura. Più tardi, tra un po', avremo Marco Cappato con noi, ma insomma, è il testamento biologico, la legge non si farà. Il contrasto all'omofobia, la legge non si farà. Le leggi sul cognome da attribuire ai figli, questo mi interessava anche, lo ammetto, molto quando sono nati i due figli, perché li sto aspettando da allora, e non ci saranno, promessa da anni e anni questa. Sugli asili nido, promessa da innumerevoli anni, non ci sarà. Sulle vittime e gli orfani dei crimini domestici, non ci sarà. Il ricalcolo contributivo dei vecchi vitalizi, ricordate l'impegno del PD prima della sospensione estiva d'agosto, la grande battaglia, abbiamo fatto nostro il testo di Matteo Richetti alla Camera eccetera eccetera, al Senato non passerà, perché il capogruppo Luigi Zanda ha detto chiaro: beh, insomma, lasciamo perdere, qui non c'è la maggioranza. C'era una promessa di fare una legge che intervenisse in tema di trasparenza sul finanziamento dei partiti, sulle fondazioni politiche. Figuratevi se c'era mai speranza davvero di farla sotto elezioni, e infatti non si farà. Ecco, devo dire che la mia delusione personale non c'è, perché sono sufficientemente vecchio da essere oramai vaccinato rispetto alle promesse della politica. Però su alcuni temi, per esempio lo ius soli, se l'impegno di Renzi, è stato Renzi a imporlo ai gruppi dei partiti mesi e mesi fa, dicendo: su questa battaglia ne va della nostra identità, e ha fatto esplodere il tema, e poi si è reso conto nel risultato delle amministrative che era stato un errore, beh, forse qualcuno dovrebbe dire: ci siamo sbagliati, piuttosto che lasciarlo sul binario morto Lo dico anche per gli esponenti di quel partito che si sono molto impegnati e che ci credono profondamente, perché così facendo, col sistema del mordi e fuggi, la mia opinione, questa disincantata ma ferma, è che si devasta la possibilità futura poi anche di fare interventi normativi equilibrati. Dopo che si divide un paese a metà ogni volta con uno scontro frontale, come è avvenuto nei passaggi in Parlamento, in uno dei due rami del Parlamento su alcuni di questi temi, e alla fine non si fa nulla, prima di ricominciare in una prossima legislatura, guardate che l'esperienza negativa peserà molto. Questa è la mia idea. Quindi, se siete interessati a questi argomenti, 800 24 00 24, per gli sms 349 238 6666, e comincerei proprio dal ricordare che dovremmo avere un audio con Renzi. Mandiamolo in onda. La battaglia sullo Ius Soli non può essere una battaglia sulla quale si cambia idea perché esce un sondaggio che dice 3 anni fa era il 71% di favorevole, un sondaggio di Pagnoncelli, e adesso è il 44%. Non si cambiano le proprie idee sulla base dei sondaggi. È giusto che si affermi il principio dello ius soli temperato, dello ius culturae, che vuol dire sostanzialmente che anziché a 18 anni la cittadinanza italiana per uno che è nato qui si ottiene dopo un ciclo di studi. È un principio banale, e chi pensa che questo sia collegato all'aumento dell'insicurezza o degli attentati non si rende conto che vive su Marte. Non è così. Ecco, queste erano parole pronunciate da un combattivissimo leader del PD il 27 di giugno scorso. E dice esplicitamente che è una battaglia identitaria da non far dipendere nel passaggio in Parlamento dai sondaggi. Che cosa è successo da allora? Ecco, noi ce lo chiediamo così, laicamente, io non do giudizi, mi limito a dire queste sono le parole, e a oggi ci si dice che lo ius soli è su un binario morto e non lo avremo. Qualunque sia la vostra opinione in ascolto, dico, io mi sto interrogando sul metodo. Allora, abbiamo con noi un parlamentare del PD, un senatore del PD, che su questo si è impegnato, e allora mi sono detto, chiediamo innanzitutto a un parlamentare del PD di questo tipo come la pensa rispetto al fatto che Zanda ci ha detto, ma oramai mi pare un po' complicata la faccenda. Allora, il senatore è Francesco Russo, grazie di essere con noi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Io, se posso, faccio una piccola premessa rispetto alla sua lunga introduzione, che condivido per molti versi, ma vorrei sottolineare due cose. La prima, questa è una legislatura in cui il Parlamento ha sfornato un numero di leggi incomparabilmente più alto a quello delle precedenti legislature, quindi è vero che molte sono ferme al Senato come alla Camera, ma questo è indice anche della grande produzione, diciamo, del governo e dei singoli parlamentari. Su alcune di quelle che lei citava, così per dare un dato di ottimismo ulteriore su queste nostre ultime settimane in Parlamento, vorrei dire ad esempio che il testamento biologico è stato ieri calendarizzato dalla Capigruppo, quindi non so se verrà approvato, ma sicuramente non è su un binario morto, e scorre nella Commissione Affari Costituzionali, che ha iniziato la discussione sulla cosiddetta legge dei vitalizi, che contiamo di migliorare sicuramente, ma di approvare nelle prossime settimane, di votare qui al Senato. Il problema non lo dico però solo per chi è a casa, non per sindacare, sì. È ovvio che modificandola e dovendo tornare alla Camera, lei lo sa cosa succede poi con la fine della legislatura, tutto qua. No, io so che le leggi modificandola è piena potestà del bicameralismo e del Senato, sì. Ci mancherebbe, non è che sto dicendo ve la dovete prendere così com'è. Io so che alcuni costituzionalisti ci hanno detto che se non la cambiamo questa è una legge incostituzionale, con dei profili incostituzionali, quindi, insomma, vorrei fare le cose per bene fino in fondo e contribuire ad approvare delle leggi fatte per bene, però non vorrei sfuggire sullo ius soli. Lei ha toccato esattamente il tema principale, cioè questa è una legge che fino a qualche settimana fa, c'è una tabella interessantissima oggi su Repubblica, credo, che dimostra come fino a 6 mesi fa c'era ancora il 70% degli italiani convinti che questa, la legge sulla cittadinanza, non è lo ius soli, non è regalare un attestato di italianità alle mamme che scendono dai barconi a Lampedusa, no? dare la cittadinanza ai bambini e alle bambine e ai ragazzi che crescono con i miei figli a scuola, parlano il dialetto delle nostre città, tifano per il Milan, per la Juve e molto spesso sono più affezionati all'Italia di quanto siamo noi. Su questa legge, 70% sei mesi fa, oggi è crollato il consenso attorno al 50%. Questo perché? Perché oggettivamente, io l'ho ammesso anche in un'intervista, noi abbiamo perso una battaglia, spero non abbiamo perso la guerra, di spiegare davvero il senso di questa legge, che abbiamo ceduto le armi davanti all'indiscutibile abilità della destra di mescolare gli argomenti e di tenere questo, che è il tema del diritto, ripeto, alla cittadinanza di persone nate in Italia, che sono italiane per cultura, hanno studiato in Italia, molto spesso nate qui, con il tema dei migranti. Questa è stata la grande confusione. Oggi gli italiani pensano davvero che noi vogliamo regalare la cittadinanza italiana a tutti coloro che sbarcano a Lampedusa. C'è una via d'uscita per provare davvero a portare alla fine questa norma in questa legislatura? Io credo ancora di sì, a patto che tutti quanti noi facciamo una scelta, come dire, di onestà intellettuale, che è quella di immaginare che questa non possa essere una legge bandiera, come diceva lei, non è una legge preelettorale. Se a destra come a sinistra si fa anche a casa nostra, si è fatto sbagliando anche a casa nostra, si trasforma questa in una battaglia identitaria e non si spiega che, ad esempio, una legge che dà a 800.000 persone la piena titolarità della cittadinanza italiana significa, è una legge che aiuta a garantire anche maggiore sicurezza, trasforma queste persone nei migliori ambasciatori dell'italianità anche nei confronti di quell'integrazione difficile che pure c'è nel nostro paese. Beh, se non riusciamo a spiegare questo, diciamo che è soltanto una bandiera della sinistra da sbattere in faccia a tutto il resto del paese, dai, sbagliamo noi, la legge non si fa ed è un errore. Io credo che invece si possa recuperare, staccare questo tema dal tema degli sbarchi, dell'immigrazione, della sicurezza delle nostre città e recuperare non soltanto quel 70% che, insomma, se era vero a febbraio può tornare vero anche a novembre, ma anche recuperare i voti in Parlamento. Guardi, questa legge è stata votata alla Camera da un'ampissima maggioranza che comprendeva anche gli alfaniani, che oggi sono un po' più dubbiosi. Al Senato ci hanno dato la disponibilità anche a un voto tecnico, una fiducia tecnica, anche gli esponenti della sinistra più radicale. Quindi abbiamo immagini anche parlamentarmente di avere una grande maggioranza. Lei, sintesi, mi corregga se sbaglio, lei ci ha detto due cose. Una, che è un riconoscimento importante, cioè dire abbiamo commesso degli errori e quindi si è visto nel giudizio degli italiani. Non è sono più bravi degli altri, non è fatto. Hanno mescolato le carte meglio dal punto di vista della propaganda politica, diciamo, quindi è un errore. Non è consueto da parte di un politico, lo sottolineo. E poi, se capisco bene, ma qui mi corregga, lei dice ci può essere però, pur in presenza della sessione di bilancio che poi impegna fino alla fine dell'anno, una finestra in cui verificare la possibilità di tornarci sopra e provarci, ho capito bene? No, questo glielo confermo assolutamente, dottor Giannino. Guardi, se noi come gruppo del Partito Democratico avessimo voluto semplicemente incassare politicamente il vantaggio di questa legge, noi l'avremmo calendarizzata. Il presidente Zanda ieri avrebbe chiesto l'immediata calendarizzazione, saremmo andati in aula, avremmo fatto una battaglia dura e pura. Il nostro elettorato ci avrebbe battuto le mani spellandosele per noi e avremmo detto che era tutta colpa dei visti cattivi, dei 5 Stelle che hanno cambiato mille volte idea su questo tema, perché soltanto un anno fa erano molto favorevoli e poi hanno guardato i sondaggi e hanno capito che era meglio, come su molte cose scottanti, tirare via le mani dal fuoco. E poi sarebbe stata colpa di Alfano che ha cambiato idea nel passaggio tra Camera e Senato. Se non l'abbiamo fatto è perché pensiamo ci sia uno spazio politico nelle prossime settimane per chiudere questa legge, ma non con una forzatura. Ripeto, questa è una legge per l'Italia, non è una legge che serve a mettersi una medaglietta e avere qualche voto in più. Senatore, allora io ne prendo, io atto e i cari ascoltatori ce lo ricordiamo, e nel senso che vedremo, la richiameremo per vedere se questa possibilità c'è, se è un gioco tattico, se poi i calendari evolvono in maniera tale da impedirlo anche tecnicamente, perché poi i calendari parlamentari non hanno anche l'impenetrabilità del fattore tempo, non è che uno può moltiplicarli, però sì, come sa, le prossime settimane sono un po' di fuoco, per così dire. Ecco, decisamente, quindi... ma siamo abituati, non è stata una legislatura. Va bene, allora, intanto prendiamo atto delle due cose che ci ha detto. La prima io la sottolineo per gli ascoltatori, però sottolineo anche la seconda, perché ovviamente non ho il titolo, né mi sembrerebbe corretto dire ah, ci sta raccontando una storia, la verità è che non è, per non ammettere che l'avete lasciata su un binario morto. Vediamo, verificheremo, e intanto grazie al senatore Russo. Allora, un attento osservatore della politica italiana, quindi un giornalista del Messaggero, che io leggo da molto tempo, di cui stimo non solo l'equilibrio, ma poi soprattutto il fatto di unire una penna con di cultura, e da molti anni io lamento che le cronache politiche siano scese di livello, diventate trash, puro colore e così via. Invece questo collega mi sembra che, siccome ha letto molti libri, si vedono sempre, giudizio improprio, non lo dovrei dare, ma io lo do da lettore. Mario Aiello del Messaggero, grazie di essere con noi, Mario. Grazie a voi, grazie allora, a voi. Allora, io voglio capire una cosa, io ho un'impressione, ma è la mia, e cioè che molte di queste leggi siano state agitate mese per mese, siccome è Renzi che ha scelto di volta in volta, so che non è elegante dirlo, ma questa è la mia nettissima impressione, confermata dai colleghi della stampa parlamentare, e di volta in volta serviva o lanciare un messaggio di un tipo o lanciare un messaggio di un altro. Adesso, retromarcia su Ius Soli, vista la mala parata, segnale all'estrema sinistra la legge Fiano, che anche questa secondo me è passata in un ramo del Parlamento, voglio vederla in Senato, ma e sul quale ho già espresso, per chi sente Radio 24 so già ieri mattina e stamattina che cosa abbiamo detto insieme a Luca Telese, detto tutto questo, la tua impressione è che sia sbagliato ricondurre tutto alla tarantella di una segreteria politica che, diciamo, fa un po' i conti con una risposta del paese un po' diversa rispetto a quella a cui era abituato quando era presidente del Consiglio? È troppo malevola la mia interpretazione? Può essere, alcuni dicono che sono troppo antirenziano nell'avanzarla. Tu che impressione hai? Credi al fatto, per esempio, con lo Ius Soli diventerà legge, che la legge Fiano sul reato di apologia fascista diventerà legge? Qual è la tua impressione? Io credo che non diventeranno leggi nessuna delle due, penso che siano entrambe leggi sbagliate, che rispondono a una logica politica che è un po' quella che dicevi te, cioè cercare così di dare dei segnali identitari da parte della sinistra al proprio popolo, in vista di elezioni che sono a breve scadenza. Il fatto di che lo Ius Soli sia finito in archivio, ma allo stesso tempo la rappresentazione del PD nel volerlo per forza approvare, è un messaggio molto chiaro all'elettorato. Noi facciamo di tutto per portare a casa questa legge, sapendo benissimo che non ci sono i numeri per farlo. È una manovra politica anche rivolta alla sinistra del PD, perché Renzi dà sempre mostra di infischiarsene di MDP, dei Bersaniani, dei Dalemiani, eccetera, ma quello è un elettorato intorno al 6% che invece naturalmente non può che fare gola al PD. E questo tipo di leggi, soprattutto quella sull'apologia di fascismo, legge inutile, io oggi l'ho scritto sul giornale, e poi se vuoi vi dico perché secondo me è inutile, è chiaramente uno specchietto per le allodole. È una legge... Io ho anche scritto oggi, citando Nanni Moretti, no? Quella cosa abusata, quella citazione abusata di qualcosa di sinistra. Hanno voluto dire qualche cosa di sinistra, così riandando con la legge Fiano a ripescare così un'ideologia antifascista che comunque è già ben tutelata da due leggi vigenti, che sono la legge Scelba e la legge Mannino. Questa legge sull'apologia del fascismo, cioè su evitare qualche pittoresco gestore di stabilimenti a Chioggia o qualche bevuta con il Lambrusco con l'effigie di Mussolini o evitare qualche vecchietta che ha in cantina il busto di Mussolini, insomma non mi sembrano cose che meritano una legge ad hoc, visto che poi dal punto di vista dei reati di ricostruzione del partito fascista, come vi dicevo, abbiamo due dispositivi che funzionano benissimo e da molto tempo. Quindi insomma, io credo, sono abbastanza d'accordo con Oscar, cioè c'è una strategia di tipo politico o politicista addirittura nel promuovere questo genere di leggi, che non andranno da nessuna parte. La legislatura di fatto è finita, a parte l'approvazione della legge di bilancio, e lì ci sta la guerra anche a sinistra. Ieri al conclave rosso tra i diversi pezzi della sinistra oltre il PD, la dichiarazione era: senza Ius Soli noi ci teniamo le mani libere dalla legge di bilancio. Certo. Tu ci credi? Io ci credo, ma io credo che se ne sarebbero tenute libere anche se fosse passato lo Ius Soli, perché l'ubicon system del partito bersaniano è proprio quello di marcare la differenza su qualsiasi cosa rispetto al PD, perché sennò non si capisce perché qualcuno dovrebbe votarlo. Quindi Ius Soli o non Ius Soli, credo che l'atteggiamento sulla manovra da parte di MDP sarà molto spigoloso, molto puntiglioso. Insomma, devono dimostrare di esistere per un elettorato che, come dicevo, a breve andrà a votare. Ma a questo proposito, le voci che i giornali rilanciano, insomma, le ipotesi che circolano, si pensa addirittura di un nuovo ricorso alla Corte Costituzionale, c'è chi ha scritto: la Corte Costituzionale adesso si è preoccupata del fatto che si voti con le due leggi che sono il risultato delle sue due sentenze. Io ho twittato ironicamente, allora è proprio finita. I giudici adesso dicono: ma davvero, davvero, andate a votare con le nostre leggi elettorali, ci dovevate pensare prima. Ma tu ci credi? Che cosa può uscire? Non solo sono i giudici che fanno da supplenti alla politica, ma sono anche i giudici che fanno da supplenti ai giudici. È una cosa pirandelliana. Io non credo a questo tipo di ipotesi consulta. Come del resto dice Renzi, come del resto dice Di Maio, come dice pure Berlusconi, di fatto si andrà a votare con la legge che c'è, con questa legge pasticciatissima. E che Dio ce la mandi buona. Dio non ce la manderà buona. No, non ce la manderà. Perché buona. Non ha il povero Dio proprio gli strumenti per mandarcela buona. Esatto. Quindi noi, cari ascoltatori, stamattina c'è stato il discorso al Parlamento europeo del Presidente della Commissione europea Juncker sullo Stato dell'Unione, e un chiaro disegno, non è detto che poi ai Consigli europei quello che conta davvero sono i rapporti tra governi e l'Europa intergovernamentale, non la Commissione, che è molto debolita. Però detto questo, parte subito dopo le elezioni tedesche, tra pochi giorni, parte il cantiere della nuova Europa a cerchi concentrici nel 2018. E cari ascoltatori, se l'Italia avrà alle prossime elezioni, con questo proporzionale per di più diverso tra Camera e Senato, una parte apre le coalizioni, l'altra ramo no, un governo senza un chiaro mandato, senza una maggioranza coesa e senza idee chiare, a quel punto, cari ascoltatori, riprende un vecchio copione, cioè il vecchio copione dell'Italia vaso di coccio in Europa. O no? O pensi che il rafforzamento che obiettivamente c'è stato in questi anni dell'Italia in Europa riesce a, per così dire, a proseguire anche in presenza di un governo che mi parrebbe più debole rispetto a quello di questi anni? Tu che dici? Beh, l'asse Macron-Merkel sarà assolutamente schiacciante. Però voglio dire una cosa positiva: non è detto che non possa funzionare, magari guidato dallo stesso Gentiloni, una sorta di esecutivo di larga alleanza tra il PD e il centrodestra. Perché comunque Gentiloni è figura estremamente apprezzata in Europa. Tajani è diventato il volto europeo della buona politica italiana. Berlusconi sembra, non sembra più lui. Nel senso che, sì, sì, rilascia interviste da mesi in cui sembra di essere stato una specie di padrino della Merkel, delle politiche, sì, della moderazione e del rigore, sì, tedesca. A me scappa da ridere. Parla però, come Adenauer. Sì, ecco, insomma, idem, mi scappa da ridere due volte. Però è così. Sì, però è Adenauer. Così. E quindi io credo che in questa tenaglia fortissima franco-tedesca, insomma, qualche pazzietto di sopravvivenza. Si può aprire. Io non oso immaginare sulla base elettorale del PD il governo di coalizione. Il governo del foglio, quello che Cerasa ci spiega da anni, che è l'unica alternativa italiana. Secondo me no, però c'è chi ci crede da sempre nel patto del Nazareno, è l'unica alternativa. Non so bene che cosa succederà a quel punto ulteriormente a sinistra. Mario, brevemente, riesci a dire una cosa? Perché alcuni ascoltatori che sanno che io sono Ius Soli ho detto: guardate, è venduta malissimo, così diventa un casino, perché è diventata inevitabilmente la spaccatura tra italiani, diamo la cittadinanza agli immigrati o no. La legge non era su quella, e la legge nel merito parla di dare la cittadinanza a giovani che secondo me la meritano, e come. Però detto tutto questo, perché secondo te era sbagliata la Ius Soli? Ma innanzitutto perché è vero che la politica deve guidare, come ha sempre fatto nelle sue stagioni migliori, la società. Non deve essere subalterna agli umori popolari, ma è anche vero che questa politica, le attuali classi dirigenti, non sono minimamente capaci di costruire in maniera seria qualche cosa che, come nel caso dello Ius Soli, non liscia il pelo al senso comune. Ho capito cosa dici, questa classe politica non poteva che mandare un tema così delicato e sensibile, per quanto importante, in vacca, e quindi tanto valeva saperlo da prima. Cari ascoltatori, come vedete, il giudizio di Mario non è sbagliato, eccetera, però Mario dice: e purtroppo temevo esattamente quello che è avvenuto, è diventata una frattura nel paese. E a questo punto meglio lasciare perdere. Va bene, intanto grazie anche a Mario Aiello. Noi andiamo alla borsa, torniamo tra qualche minuto di pubblicità e andiamo a sentire l'opinione di Marco Cappato sul testamento biologico. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta. La lunga lista delle leggi su cui questa legislatura si è divisa, ha spaccato l'Italia, uni contro gli altri, delle quali un vastissimo numero non passeranno. Abbiamo visto lo Ius Soli, il senatore Francesco Russo del PD ci ha detto: sì, abbiamo commesso un errore, si è visto che l'opinione degli italiani è mutata significativamente, vedremo se ci riusciamo, faremo l'impossibile. Mario Aiello ci ha detto: non ci credo molto. Tra questo ci sono altre leggi, ripeto, quella sul cognome da attribuire ai figli, sugli asili nido, sulle vittime, gli orfani dei crimini domestici, il ricalcolo contributivo dei vitalizi. Ve l'ho sempre detto che la roba alla Camera era fatta per far vedere che c'è chi lo vuole e chi non lo vuole. Tanto al Senato non avrebbero approvato mai i parlamentari il ricalcolo contributivo dei vitalizi pre-riforma entrata in vigore in questa legislatura. E tra le altre c'è anche quella sul testamento biologico, ed è con noi Marco Cappato. Grazie di essere con noi, Marco. Grazie a te Oscar e un saluto agli ascoltatori. Leader dell'associazione Luca Coscioni, io ti chiedo solo di ascoltare le opinioni dei nostri ascoltatori e poi commentiamo con te, perché la domanda è molto semplice, Marco: ma tu ci hai mai creduto davvero che la facessero in questa legislatura? Questa poi di solo adesso sì o no e poi ci spieghi perché. Ci hai mai creduto davvero? Sì, sono un uomo di tanta fede. Ah, Incredibile, io invece non ci avevo mai creduto a questa idea, perché avevo pensato, questo è il classico tema che sotto elezioni i partiti dicono siamo nella larga. Io sono vecchio come osservatore politico e devo dire che però temo che avrò ragione io, temo perché naturalmente la legge la vorrei, perché mi sembra che sarebbe più che matura anche nella testa degli italiani, però magari. Allora iniziamo a vedere che cosa ci dicono alcuni dei nostri ascoltatori, cominciamo con Luigi da Firenze. Sì, ciao, buongiorno Oscar, buongiorno a Marco Cappato, vorrei stringerlo e lo apprezzo vivamente da quarantenne per tutte le battaglie che fa, anche da radicali, però io volevo tornare sullo Ius Soli, sì. Speravo che c'era quello del PD, sarò veloce. Quando un esponente politico, l'ex primo ministro nostro, sì, Matteo Renzi, dichiara in quel modo, sì, da giovane, che in tutte le forze sarà stata fatta la legge, la portavano avanti, mi trovo a vedere quelli del PD guardare i sondaggi e vedere praticamente che se passa questa legge passano, non prendono voti, quindi la fanno morire. Quindi io mi chiedo, se su una legge del genere, importantissima, che su alcuni punti anch'io non sono d'accordo, però se tu lo fai lo porti avanti, io dico, ma se su questo non vai avanti, se mi fai la riduzione delle tasse, una proposta sull'educazione, ma ti devo credere? Non ti credo, perché tu vai per... Quindi Luigi, mi pare di capire che ci stai dicendo, non tenete, il PD tenga conto anche che c'è chi ci ha creduto e deluso poi non li vota. No, dai, io sono non lo hai detto, ma insomma, ecco. Io sono deluso dalla politica e sono uno di quelli che forse non andrà a votare, perché è questo quello che non porta i cittadini, capisco, a votare. Luigi, io non dovrei dirlo, ma per molti versi... ti capisco, trovo molto difficile trovare qualcuno che interpreti il mio minoritarissimo punto di vista attualmente. Grazie Luigi, sentiamo Francesco a Torino. Francesco. Buonasera Oscar e Marco, vorrei esprimere un'opinione un po' controcorrente, sì, vorrei uscire dalla diatriba destra-sinistra, sì, vorrei essere più pragmatico e dire queste due leggi, Ius Soli e Fiano, servono al paese. Se fossi un americano, un francese o un tedesco che deve approvare magicamente come primo ministro appena nominato in Italia queste leggi, penso che le farei approvare, perché Merkel, Macron e forse lo stesso Trump non rinuncerebbero da una parte allo Ius Soli e soprattutto Merkel alla legge attualmente vigente in Germania contro alcuni. Sì, sì, sì, sì. Quindi l'invito è magari a, come si chiama adesso, Forza Italia o l'altra parte, un dispetto al PD e approvarlo insieme come approccio costituzionale. Francesco, evitare sei straordinario. Le diatribe dei cespugli. Abbiamo degli ascoltatori che hanno uno straordinario senso di amore del paese e coniugato a un grande realismo politico sotto elezioni, e lo dico non per criticarli, ma semplicemente perché è il vecchio topo osservatore della politica italiana che prevale non per cinismo ma per realismo. Però grazie Francesco, e abbiamo a questo punto le strade, il traffico. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta. La versione di Oscar. Allora, eccoci qui, tornati ancora all'ultima telefonata, poi sentiamo Marco Cappato. Stefano da Piacenza, Stefano, dici come la pensi. Buonasera Oscar, volevo esprimere nel concetto, ecco, lei ha detto l'amore per la propria patria, per la propria nazione, mi aggiungo, io credo, così generalizzando, però una cosa alla quale penso spesso è che la nostra politica, i nostri politici debbano incominciare a pensare, diciamo, più in grande, cioè a pianificare di più quello che è un'azione legislativa e non preoccupandosi di risolvere i problemi del momento, e sempre del momento, sempre dell'emergenza. Sì. Avviene per lo Ius Soli, avviene per le emergenze sul territorio. Stefano, quello che dici tu è che ci vuole una programmazione di norme sulle priorità di lungo periodo dei problemi strutturali del paese. Un paese non può continuare a lavorare a fantastico, caso. Ma candidatevi voi e fatevi eleggere. Vorrei alcuni di il vostro buonsenso lo vorrei rappresentato nelle forze politiche italiane. Lo dico da elettore deluso. Ma detto tutto questo, naturalmente voi avete ragione in questo, è esattamente quello che nel nostro paese non avviene, però soprattutto fate anche mente locale, da che è certo che si vota col proporzionale, l'identitarismo sale ovviamente asintoticamente, nel senso che col proporzionale bisogna dire che si è ciascuno meglio al mondo e gli altri fanno tutti schifo. Mica bisogna presentarsi con un programma coeso per governare di coalizione. Quindi le leggi manifesto fatte non per essere approvate, ma per far mostrare la propria identità e la propria superiorità etica, diventano lo strumento per avvicinarsi al proporzionale. Allora, spiegaci, Marco, perché ci hai creduto che approvassero il testamento biologico? No, intanto ci provo ancora, ci credo meno, ma ci provo ancora perché collegandoci a quello che diceva l'ultimo ascoltatore, se guardiamo quello che succederà nei prossimi anni e decenni, l'incidenza della tecnologia sulla malattia, diciamolo in un altro modo, la necessità di poter decidere in fasi terminali della vita che possono durare anche molti anni grazie alle nuove tecnologie, è un'esigenza sociale sempre più sentita. Il codice penale per il quale io andrò a processo per l'aiuto dato a Fabo è del 1930, i malati terminali non esistevano. Mm-mm. Quindi c'è un'esigenza sociale che cresce. Rispetto allo ius soli c'è anche un consenso di opinione pubblica molto più solido. Mm-hmm. Perché tutti i sondaggi parlano dell'80% circa, sì, dei consensi, anche di più. Il provvedimento è stato approvato alla Camera alla stragrande maggioranza. Vero. Con una coalizione che non coincide con la coalizione, esatto, di governo, perché c'era il PD e il Movimento 5 Stelle, oltre alla sinistra e anche a qualche parlamentare, diciamo così, libero sparso. Quindi le condizioni per sottrarre il tema dallo scontro partitico ci sarebbero, volendolo. Ovviamente l'immediata esigenza di mettere insieme le coalizioni per le elezioni in Sicilia si sta mettendo di traverso, però una maggiore, come dire, forza, possibilità, anche rispetto ad altri provvedimenti sulla questione del testamento biologico, io la vedo. Dopodiché, siccome oggi stiamo parlando 13 settembre 2017 e 4 anni fa, 13 settembre 2013, noi depositammo 67.000 firme su una legge di iniziativa popolare per la legalizzazione dell'eutanasia, neanche del testamento biologico, dell'eutanasia, e in 4 anni il Parlamento non ne ha discusso nemmeno un minuto, e anzi c'era stato detto che si discuteva di testamento biologico e non di eutanasia per essere più realistici nella possibilità di approvarla. È chiaro che di fronte al fatto che adesso nemmeno il testamento biologico parrebbe arrivare, non posso essere ottimista. Devo anche dire però che l'altra condizione che rende possibile l'approvazione è il fatto che ormai ci troviamo di fronte a un voto secco, cioè o si approva il testo passato alla Camera, oppure ovviamente se passasse anche un solo emendamento che bisogna ritornare poi alla Camera dal Senato, sarebbe andato tutto a monte. Quindi questo paradossalmente semplifica, perché impedisce dei giochini di mediazione o di confusione delle acque, per cui questo testo o si vota o non si vota, e la Presidente della Commissione competente, la relatrice De Biasi al Senato, volendo avrebbe il potere, lei stessa lo ha detto, di portare il testo direttamente in aula, saltando la Commissione. Quindi, volendo, come dicono gli americani, there is a will, there is a way, se c'è la volontà, la strada tecnicamente è possibile, il consenso popolare c'è, per cui io non dispero che ce la si possa fare. Devo constatare che ad oggi non si è fatto quello che sarebbe stato necessario, cioè portare il testo in aula. Nella prima parte della trasmissione, quando avevamo ospite il senatore di PD Francesco Russo ci ha detto: oh, ma noi, Giannino, cari ascoltatori, il ricalcolo contributivo noi sicuramente lo esamineremo, lo cambieremo rispetto alla Camera. E ho detto: beh sì, questo naturalmente rientra nella propria facoltà, visto che il bicameralismo è stato perfetto in Italia. Detto questo, sapete perfettamente che è una maniera per affossarlo, visto che poi comunque tornerebbe alla Camera. E mi ha detto: però sa, ci sono i problemi aperti in quel testo, eccetera eccetera. Qui Oscar, l'aiuto, viene anche dal fatto che i problemi aperti, come dire, non ci sono, non perché non ci siano, cioè ci sono delle contrarietà evidentemente, ci sono 3.000 emendamenti, l'ostruzionismo, ma la legge sul testamento biologico fa solo una cosa, molto semplice: recepisce la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, che già ha stabilito che noi abbiamo il diritto a sospendere le terapie senza soffrire, sotto sedazione, anche quando questo provoca poi la morte della persona che lo sceglie. Quindi, da un punto di vista così dell'avanzamento nella società, è semplicemente una presa d'atto per evitare che questo diritto ci si metta 16 anni come Beppino Englaro a farlo valere in giustizia, cioè diventa un diritto al quale corrisponde un obbligo del sistema sanitario. È questo che chiede la legge sul testamento biologico, non è la creazione di, come pure noi vorremmo, nuovi diritti sull'eutanasia, no, sull'aiuto medico alla morte. Per cui è una questione molto semplice sulla quale si impone un'assunzione di responsabilità, prendere o lasciare. Se poi i parlamentari, ciascun parlamentare si vorrà ripresentare dicendo che legittimamente ha impedito l'approvazione di un testo che recepisce la giurisprudenza sul fine vita, e questo ovviamente sarà libero di farlo, però almeno la decisione, questo è doveroso che sia assunta. Inutile dire che io tifo perché prevalga il buonsenso, vedremo. Quando vai a processo tu? Devono fissarmelo, perché avevano fissato l'udienza del giudice per l'udienza preliminare, però io ho chiesto di saltare, ho rinunciato a questo ulteriore passaggio per andare direttamente a processo, proprio perché ho pensato che a questo punto, visto che il processo vero è pubblico, certo, meglio questo, sono molto d'accordo, meglio avere almeno un dibattito, esatto, pubblico. Se non ci può essere in Parlamento, ci sarà il naturalmente tribunale. Cari ascoltatori, così si rinuncia anche a un proprio diritto, ma lo si fa perché pubblicamente sempre Marco Cappato ha detto pubblicamente quello che faceva, ha proprio allo scopo di contribuire poi al dibattito pubblico, a costo anche di esporsi naturalmente ai rigori della legge. Quando si fa così, questo è un metodo mille volte apprezzabile. Grazie anche a Marco Cappato, grazie